fratelli tutti uniti, facciamo l'Italia nuova. Ci hanno rimasti nudi tutti traditori, dobbiamo distruggere tutte le radici, rimaniamo amici con tutte le nazioni. E vivo la Repubblica dei lavoratori, e vivo la Repubblica della libertà. E la Repubblica è bella, non va trovando guerra, vuole la libertà. Tutti dobbiamo lavorare, chi sono i cristiani? Siamo noi i lavoratori, dalla mattina alla sera buttiamo il sudore. E vivo la Repubblica.